Letture di Radio 24. Strafalcioni, nomi stranieri pieni di errori, abbreviazioni, luoghi comuni. La lingua italiana dell'era postmoderna è da sempre oggetto di analisi per il linguista Stefano Bartezzaghi, che nel suo ultimo libro propone un vero e proprio galateo della comunicazione. Un libro straripante di cose comiche, commenta Ermanno Cavazzoni nella sua recensione pubblicata sul Domenicale del Sole 24 Ore in edicola oggi. Devo dire che leggere Bartezzaghi mi diverte sempre. E poi ammiro la sua capacità di abbondare in esempi, di accumularne e finire per fare ridere, sempre con un'acutezza e una leggerezza da cui molto si impara. Questo suo libro ultimissimo, questo Galateo della comunicazione, cosa sarebbe? Beh, direi che è una vivacissima rassegna dell'errore di lingua, degli strafalcioni in uso o occasionali. Quindi, in un certo senso, è una grammatica all'incontrario, una specie di sgrammatica e di stortografia, in opposizione all'ortografia, con elementi di cattiva pronuncia e di sintassi sbagliata. Tutti gli sbagli, cioè, che possono fare arrossire quando siamo noi a commetterli e che fanno ridere quando sono gli altri. Il libro comincia parlando dei divieti, di ciò che non si fa e non si dice. Ma dove c'è un divieto abbonda l'errore, tanto che si può essere incerti se bisogna seguire l'uso o la regola. Ad esempio, se uno parla al gommista e dice correttamente «Scusi, vorrebbe sostituirmi lo pneumatico», il gommista resta leggermente impressionato e sente che costui non è un tipo cui si può dar confidenza. Sente che è sussiegoso. E il sussiego è in quel «lo» così corretto che risulta anche antipatico e snob. «Ma com'è che parla questo qua?» penserà il gommista in cuor suo, per cui avrà sì rispetto, ma non gli praticherà nessuno sconto e non si azzarderà a proporgli di pagare in nero, perché se invece avesse usato la forma errata il pneumatico, l'avrebbe considerato un comune mortale e ancor più comune con la forma orale spinta mi cambia il pneumatico. Quindi, se volete lo sconto o se volete farvi riconoscere come possibili conniventi nell'evasione fiscale, non parlate secondo la regola e viceversa. La Guardia di Finanza, per combattere la piaga dell'evasione, potrebbe mettere sotto inchiesta chi fa artatamente errori con scopi delinquenziali. Non so però se è una buona idea. L'errore quindi non è tale in assoluto. Ogni forma in uso si addice a una sua situazione, ovvero, come dice Bartezzaghi, la lingua impiegata è in relazione con l'ambiente e le circostanze. E ci sono circostanze in cui l'errore è più opportuno della forma corretta. Anzi, dove la forma corretta sarebbe un errore. Quella bella frase scritta in un tema da un bambino di Napoli, «Io speriamo che me la cavo», diventata il titolo di un libro fortunato del maestro Marcello D'Orta, è una frase enormemente più espressiva della sua forma corretta, che avrebbe dovuto essere «Spero di riuscire nella vita». Anzi, se un bambino di 8 anni scrivesse così, ci sarebbe da preoccuparsi. «Questo mi diventa ministro delle finanze», direbbe con spavento il padre che fa, ad esempio, il parcheggiatore abusivo. E poi, soprattutto, l'errore è portatore di comicità. E il libro di Bartezzaghi è pieno straripante di cose comiche. Ad esempio, la faccenda dei nomi propri di persona strampalati, di cui si dà un ampio repertorio, e giustamente se ne discute, perché tanti nomi vengono da equivoci, cattive traduzioni, parole sentite male e mal combinate. Forse un tempo facevano figli per dare sfogo alla creatività, specie in Emilia-Romagna. Wilmen, Borana, Shakespeare, Orfella, Willian, Evor, Ipsetilla. E l'elenco è lungo, un elenco del telefono del paese delle meraviglie. E poi c'è l'intraducibilità, a volte eroicamente e tragicomicamente tradotta, come certi menù bilingui tradotti alla lettera, forse da un cuoco pignolo o dal traduttore automatico, che circa è lo stesso. Birra to the thorn, birra allo spino. Penne to the angry one, penne di un tale arrabbiato. Filetto ai ferri da stiro o, in un ristorante cinese, pollo alla Marco Pollo, che trovo prossimo al caso psichiatrico con quel velato rimando, per chi lo sa cogliere, al Marco Cavallo dello psichiatra Franco Basaglia. Nel capitoletto sulle parolacce si fa notare che, secondo lo Zingarelli, le parole volgari sono 84, indicate con volg. Ed è una delizia pensare che questo fenomeno dilagante, senza barriere, che affonda negli infiniti gerghi da discarica, si è invece così ben recintato e chiuso. 84 possibilità. Ma come? Direbbe uno del basso volgo. È così misera la libertà? Bartezaghi ne fa l'elenco scrupoloso e, arrivati all'84esima, che è Zoccola, sembra di aver letto una poesia del Belli o di Olindo Guerrini, una poesia di un'allegria infinita. Poi c'è il politicamente corretto, che può dar luogo a cose esilaranti. I ciechi dell'Istituto Cavazza di Bologna mi dicevano che qualcuno li ha chiamati diversamente vedenti. Loro di questo ridevano, ma nell'espressione facevo loro notare che c'è anche qualcosa di involontariamente sublime, un rimando alle apparizioni mistiche. Può darsi, mi hanno risposto. E poi le incertezze. Al femminile si dice ministra o ministressa. Da ministressa certune si sentono offese, come da sociologhessa, filosofessa, perché somigliano a orchessa. Ma direi che ministra o ministressa sono due tipi umani diversi. La ministra è sovrappeso e più autorevole. La ministressa è una che trama e rimescola, in eccesso. E perciò dura poco, per via anche che stressa tutti. La ministro, non so, deve avere qualcosa di storto nell'anima, e per la verità di questi tipi ce n'è. Tutte forme da conservare e da usare in modo opportuno. Aggiungerei la ministrina, come c'è il gallo e la gallina, da cui il ministrone, come c'è il cappone. Conclusione di Bartezaghi da condividere. Per vivere felici bisogna fregarsene della grammatica, giacché molte cose buone nella vita avvengono per errore. Avete ascoltato la lettura della recensione di Ermanno Cavazzoni al libro di Stefano Bartezaghi, Come dire, Galateo della comunicazione, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. I dati di vendita degli e-books in Italia non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli degli altri paesi europei, ma fanno comunque sperare in un futuro incoraggiante per la lettura digitale. A quanto pare, negli Stati Uniti, persino le anziane signore che leggono all'ombra del proprio porticato bianco li hanno sostituiti ai libri cartacei. Stiamo ovviamente parlando dei reader, da non confondere con i tablet come iPad, che non a caso proprio negli Stati Uniti hanno oltre l'80% del loro mercato globale. I dati risalenti al periodo 2009-2010 diffusi dalla AIE, l'Associazione Italiana Editori, raccontano una situazione non del tutto rosea, ma neppure completamente disastrosa. Le cifre del mercato italiano dei reader non sono ovviamente nemmeno lontanamente paragonabili a quelle del mercato americano, dove il reader a sorpresa batte persino il tablet, o dei paesi europei più avanzati, ma fanno comunque sperare in un futuro incoraggiante per la pratica della lettura digitale, ovviamente tenuto conto del tradizionale ritardo della domanda tecnologica italiana. Fino al marzo scorso, i reader acquistati in Italia superavano abbondantemente le 20.000 unità. Un risultato non del tutto insoddisfacente per un prodotto partito in sordina, come feticcio per una piccola nicchia di acquirenti, maniaci di tecnologia o di lettura o di entrambi. I problemi reali, semmai, sono altri. Il numero delle case editrici che propongono titoli digitali, per esempio, è molto, anzi, troppo basso. A fine 2009, le case editrici italiane che proponevano almeno un ebook nel loro catalogo erano 131, di cui ben 94 erano però case editrici di piccole o piccolissime dimensioni. In questi due anni la situazione è andata migliorando e ormai grandissimi editori come Einaudi, Mondadori o Feltrinelli propongono listini di titoli digitali di proporzioni considerevoli, seppur non ancora pari a quelle dei titoli fisici. Resta però aperto un altro problema, ovvero quello del prezzo, decisamente troppo alto se confrontato con gli altri paesi e decisamente troppo simile a quello della controparte fisica. La circostanza più negativa di tutte riguarda l'esistenza di un rigido controllo dell'utilizzo che l'acquirente può fare di un ebook, che si basa su un sistema di crittografia chiamato DRM, Digital Right Management, che impone una sorta di sigillo digitale al libro, anche se legalmente acquistato, per cui è possibile visualizzarlo soltanto sul dispositivo a cui è stato originariamente legato. Questo significa che quando si decide, che sia di propria volontà o per un guasto, di cambiare reader, con esso si perde anche la libreria di titoli che si sono acquistati fino a quel momento. Una trovata che ha spazientito non poco gli utenti, con il risultato di favorire l'impennarsi della pirateria degli e-books. Dispiace, ma per fortuna siamo agli inizi. C'è tempo di rimediare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cristiano De Maio, Reader Italiani, dal numero 4 della rivista Studio.